canali, in 80 canali vi segna sempre la stessa cosa. Vuol dire che fa sempre la stessa cosa. Quello lì funzionava benissimo. Ora non lo so usare lui, perché è impossibile che il suo 80 canali vi segna sempre uguale. Ma cosa ne so io, cosa ha fatto lui? A me mi funzionava benissimo. Oscilla appena e l'altro invece accertabile a 1 e 2. Allora vuol dire, le facce marie sono quelle, molto ciuo. Il cappello. Pittina. È sicuro che il suo Zodiac esce con 10 volte? Lui. Lui invece me l'ha spiegato tu come, poi già l'ha buttato Gian Maria quando era venuto qui ed era giusto come l'avevo piazzato. Uno e due in aggiù, un vito rosso, mentre uno e due in aggiù, un vito. Invece mi dà qui va via quello piccolino in plastica, qui si è tutto imballato. Sarà che mi ne fa solo dove mi sono parati i due, i tre radiali. dispensore. Non puoi pretendere che sia come se dalla fabbrica. Grazie, dispensore. Devo filo di retro, non ci ammazzo. Tant'è ne sembriamo attessi. Capito. Soldato in tutto quanto. E nei canali più sali e più sagoi stazionari, capito. Nell'1, nel 20, nei canali normali sono a 1, no, non ce n'è. Però poi sulle canali alti salgono a 1,5. E vai ai limiti del 28 ce li hai a 1,8. A 28, 28, là. E non deve essere così. Nei 28 li devi avere normali, lo stesso. Massimo 1,5 proprio. Questi salgono di più di 1,5, allora nelle, io sono quell'altro, sono 250 canali, quanti sono? E quindi sì, al limite penso di 28. O li tocca il 28, non lo so, ma gli ultimi canali risultano per contare la materiale, sono su 28 spiccioli, quelli che sono io. E quindi le stazionali sono ben alte, 1,8 così. No, che non mi deve essere stazionari così. Perché l'induttanza non è come quella che c'era dalla fabbrica, è per quello. Il filo di dentro è l'anima, è buco che collega il TL con lo stilo dell'antenna. Cosa, la lunghezza è sempre quella, il filo è giusto, forse è un po' di centimetri un po' più lungo, e si piega dentro, fa un po' dentro di piega, no? Ehi, ma no, è giusto come il TWS. È un'induttanza quella, vai a BG, Sarri. Vabbè, comunque mettono il contattore e io risolvo tutto. Lui se c'ha un'antenna con tutti quegli anni, c'ha uno dei due stazionali, fino a 80 canali, è buono davvero. Perché di quelle manco le vecchie, quelle sì che erano buone, non quelle che stanno facendo adesso, fanno schifo. Ascoltando. Ah, io attaccati con l'antenna. almeno ne ho due che funzionano con due antenne diverse. Tra l'altro si è attaccato il dittore. Come che mi senti? Esce meglio comunque con fronte agli altri. 45 istituto in compreso, no, la voce un bel satura. Adesso satura? Non come poco fa nel 45. Ah! Non lo so come nel 45 poco fa. E ma qui come adesso? Sì, taglio di tu. Allora, è passato. così come adesso. Guarda il segnale, è così come adesso. 9:20 qua, 9:10, 9:20 il secondo. Faccia va bene. Sì, eppure sta la radio, è una bella radio, la mia è che sta del tipo. C'è qualcosa con l'apparato, con il controllato? Ma sono canali altri, di questi normali, come mi senti? Sì, si è approcciato, mi si è passato così, eh. Bisogna farlo controllare allora, ma sarà giura di qua c'è sta giusta, non l'ho mai toccato. Controllo dal dottore. Sabino, me lo va a sapere, controllo me. Io ti ho già visto. 9:15, 9:25. Faccia va bene. Io vi lascio a Sabino, che devo fare cosa? Domani, là. Ciao. Ciao Natalino, ciao Fabrizio, ciao Antonio, ciao circolare anche agli ascoltoni. Alla prossima, ciao ciao. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, buona cena, saluto in famiglia, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao a tutti. Sono dal sud della Spagna, Madrid, Portogallo, Natali. di Sassari, Sierra Sierra, la stazione Natalino, è un attimino avanti Natalì, c'è un amico in sud della Spagna e un altro amico in Portogallo. Uno spagnolo e te l'ha rilanciato, però tu non c'eri. Beh, Salino. Io avanti. Antonio sono. Dimmi a tu. E che ho qua? E ti chiaro. Dove sei a tu? E sono qua. Come cavolo si chiama? Bellini. E me? Chia Bellini. Ma sto Antonio no. Tutti gli stati dell'est a finire la rotazione con la Spagna, c'è tutti quanti. Ecco, la Spagna è un bel vento di mare perché c'è dei giorni. No, un'altra cosa è la questione con l'Estonia, la questione con la Russia. Allora, guarda, ce l'elenco. Regno Unito, Londra, Svizzera, cantonato italiano, non svizzero, poi vabbè Spagna, Francia e cose, Serbia, capito? Ma quando? Oggi, nell'arco della giornata, ho comunicato con tutte le nazioni. Però è apertissimo, verso est, c'è un'apertura allucinante, verso est e verso nord. Tu sentivi est e nord stavano parlando. C'era la Scozia mi stava spappolando il cranio. Allora guarda, con questo macchinetto qua mi arrivavano dalla Gran Bretagna, arrivando quasi a Coso, a come si chiama? Uffa, cosa ti ho detto? Olanda, sì, in Olanda, nel Regno Unito. E mi arrivava quasi 9:15 arrivava a questo smitter qua. Erano potentissimi, micidiali, mi piace la Natalino. Vabbè, però qui diciamo anche più di un kilowatt. Intime, Irlanda, Gran Bretagna, etc. E le mancava un pezzettino nascosto della Gran Bretagna. E poi si è messo un attacco nuovo a fare prove da stronico senza usare il carico fittizio e probabilmente lo farò domani. Però quella testa nuovo, una bella portantata se l'ha meritata. Ecco, con quell'antenna che hai costruito stavi collegando di brutto? Un paio di palle, però beh, mezz'onda. No, non ho detto che sta facendo tutte quante le frequenze con l'antenna, anzi usando questa di adesso stai parlando, però quella là hai messo va bene con l'antenna che hai fatto, che se ne scegge. No, quella è accantonata momentaneamente perché c'è tempo. No, quella mezz'onda. Mezz'onda per 10 metri. Sì, quello che si è messo a accordare in 11 metri, qualche colpo lo prenderà in seguito. Questo come ricambio, non si fa così. Si usano i carichi fittizi, non si usano. Per stare rilassati non si usa l'antenna. Fa schifo, una cosa che fa schifo veramente. Buonasera Adriano, Natalino, Salverio, e poi non so che c'è in rotta. Vicinanza a quella del ponte 1? No, la vicinanza a qua nella 131, no, usciamo, dai, direzione Cagliari. Ehi, a fare così, vabbè, direzione Cagliari, entri poi per via Milano. È positivo, direzione Cagliari questa è. Siamo a Rogero. A Milano ci sei? Non ferma. Passa 40 avanti. Ok. Questo è il capo messa nel 27405 da tu sapevi. Beh, sparito sei, sapevi. Ciao, sono arrivato. Ciao, salve, alle prossime. Ciao. Ciao, buon amico Massimiliano. capito, e poi dopo ti ho fatto entrare io al becco e loro si sono spostati, io non ti sentivo perché c'era Claudio, prova a prova e non ti sentivo, capito, non è che non ti volevo rispondere. Adesso che mi stavo ascoltando e sono entrato perché c'era una posizione dove la radio suona più forte. Comunque ciao Massimiliano. No, non era riferito a te comunque, no. Era riferito agli altri due che mi ascoltavano qua, comunque non succede niente, non succede nulla. Ok, là, ciao di nuovo, salve, ciao Claudio, io sto scendendo, ciao ciao. Ciao Massimiliano, ciao, grazie al controllo. Allora aspetta che me la regolizzo un secondo. Vai, c'è una posizione dove proprio esce bene l'amplificata, con l'amplificazione forte. La muli così e la manetta è tutta la regola da fuori, no? Dai potenziometri da fuori. C'era un punto, non riusciva proprio la radio spedita di lusso, come le altre radio che hai. E l'hai saltata, si è andato più avanti e è tornata a chiudere. Forse non me ne sono accorto. Allora dimmi qual è, se questo. Allora, ola 1, 2, 3, 4, prova, prova, prova. Ola 1, 2, 3, 4, 4 chiudendo. Qua invece sto aprendo. Dimmi se è questa posizione. Prova, vai, vai ancora, prova. Polo, no, no. c'è nel problema, adesso sollevo la potenza. Adesso io sollevo la potenza, mi alzo le cuffie, 1, 2, 3, 4, sollevo leggermente la potenza la lascio stare così, va bene? Allora guarda, ora 1, 2, 3, 4, prova radio, prova, prova, e non la tocco più. Bene, va così. Non è quel passaggio che trovi, c'è un punto dove giri quel trimmer che si sente la radio aperta proprio, se non vai piano piano non la fai sentire. No, posso dirti, la superi, ma avanti, io ho sentito il passaggio ultimo e c'è andato avanti, continuo ad arrivare. Scappa che tu hai ragione, allora aspetta che la rimetto com'era, 1, 2, 3, 4, 5, siamo messa così, ora, ora, ora. Eccolo qua, lo lasciamo così. Allora guardiamo se è questo, perché io sono in cuffia, capito? Io sono in cuffia, allora vediamo se è questo qua il passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo qua è il trimmer che senti meglio. Ma non c'è stato un momento all'inizio del passaggio, non vedi, l'ha fatto lungo anche questo. Avete passato il segreto, adesso vedete se è così, sta, e se sento la radio aperta bene, poi si è di nuovo sparito. Chiusa. L'effetto che fa questo qua, vediamo un pochino, così aprendo questo, allora vediamo, adesso te lo apro di più, Attento Sarri, guarda, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, questo qua è il trimmer. Non so se volete tornarci in su il 2 o una fianca all'altro, così è. Ce ne sono due soli, cioè no, io sono in cuffia, capito, ma è... La fendi sopra, io non lo so come te la vuoi tutta la radio. Allora, processore disinserito, processore inserito, cosa vuoi che faccia? Mettiamo... Guarda qua, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, questo qua è... Dimmi se è questo. Okay. in protezione dopo che scaldano le valvole. Adesso ce l'ho. Sta bollendo, sta bollendo. Nulla, e tiene. La chiudo. Cazzo, la chiudo e mi va in casino. Che ce la mettano una volta per sempre. Comunque, adesso va bene. Se la lasci così, va bene. Poi, non so, vedi tu. Qua io ti ascolto proprio come le altre radio. Se invece dici qualcosa ti ammassa la modulazione, ti ammassa. Sembra che non ci sia processore, nulla, così è una schiavettata. Ciao, ciao. Ciao, salve. Adesso si può andare al barriero. scritto? Niente, non sono bruciato, perché tanto devo guidare. Si sono bruciato i finali. Io... Ma fanno scala ancora. Ciao, ciao, ma poi la fanno scala anche da poco fa, capito? Non c'è differenza. Ciao, ciao, a dopo. Ma schirreggia. Quanti? Antonietta. Beh già, anche se scendi così. Guarda, gli anni. Anche che sei triste Gianni, cosa c'è Gianni? Potrei tanto scemo con una radio io. Non te l'avevo detto, mi ha fatto uscire. Sì, me l'avevo detto, già si aggiustano i finali, tanti finali ha giocato già della vita mia io. Qual è il problema? Già si aggiustano i finali già. Ma non è solo per quello, no, qua. Ecco che è successo. Sì, la bu. Ma quando la ho scritta non sai. ci accettiamo dopo. Non avevo come che mi stava in salata. Ah, va, mi aggasino. No, non ne voglio più. Vedi, è una di quelle di computer, quelle piccolissime. Già, non ci sta. No, non ci sta. Non mi chiude il coperchio, ho quello C140, com'è? Oh, è vero. È molto alto, com'è? Cavolo, cavolo. Vabbè, va. Vi saluto, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah, ci vado a mangiare anch'io, poi vediamo. Va bene. Poi si sfugge. Dove sono dice da 7, 9, era di 5. 9,75. Cazzo, allora mi sta ancora appena. Da Carpiere Massimiliano, da la gala. È positivo, dai. Tu da tutti, siamo rientrati. Piace a te se sei rientrato. Pagava. Pio Pio. Pio Pio si fa le bamba. No, dico Pio Pio arriva in quelle coordinate dove c'è l'ermetta, capa capa. 9.30 mi stai arrivando. Metta a spinta. Poi, sì, non lo so. Ehi, dai, no? Ciao. numero non c'è più nessuno. Dai, su chi siamo? No, vale. A tempo di senti quando non gira il canale, entra, vai tu, Antonio, qui. Te vai se qualcun altro, Antonio, però vai detto. No, no, io aggiunto il nome della persona in cui ho modulato, prima di fare il passaggio. Ah, è quello dei punti si chiama quello. Non so se sei in parte alti o se tutti molto equalizzato verso i bassi. Perfetto, segnale non granché, però non c'entra niente. Segnale non è granché, lei usa pianotone cerito. Come? Se c'era pianotone cerito. E poi va bene, pianotone cerito. Ma non siamo esattamente vicini. Forse sì, 950, 940. Tu mi dici a me, segnale non è granché. Vabbè. Segnale che non è un granché, va bene. Numero 22, che vuoi dire? Qua da quella zona arrivati tutti i passini, a parte San Vigilio e Lugo, arrivano per 40. Le regole le ho con lo Svizzera, allora fai favore, perché è possibile. Se tu mi stai arrivando a 9.35, qua 9.33 esattamente, io ti arrivo a 9.30, vuol dire che lo Svizzera vuole regolare. C'è qualche regolazione da fare. Ok, va bene. Comunque va bene così. Tu qua sei 9.32, San Vigilio e 9.60. Come tutti gli altri sono giusti, perfetti e allineati. Ok, comunque l'importante è volato bene, qua non c'è nessun problema, tutto a posto. Ok, da te c'è il problema allora? Va benissimo, grazie, ma non perché ho stato il volume io adesso, non ci ho toccato nulla. Dal primo passaggio che mi ha fatto a questi ultimi due passaggi è fatta la radio. Va bene così, nessun problema. Guardate, c'è la buccia a tanto buio, poi non mi dire che è bassa, che è alta, che è troppo alta, però questa è la sua misura ideale, quella che scoppietta, poi non so, se è fastidiosa, dovete lui. No, no, no, va benissimo, non ci dà fastidio a me che sono a 100 metri, va benissimo. Però lasciamo stare così, non troppo minuta, mi sono rotto le palle. Eccola qua. Cool. mi dà Dio, perché... Al ponte di Rosello magari, che arriva un po' lo scala, passano al ponte. 60, chi passa il ponte ci arriva, circa 9,60, ed è proprio in vista della mia antenna, in vista della mia antenna, il ponte è tratto in quella maniera, è conforme quello del segnale, non tratto a orecchio, come fa qualcuno. Oh, Adria, si è rotto quel dio, va, a fanculo. Oh, ma Gianni qua è... Yeah. presidiario. Comunque uno l'ha smontato e segnato tutte e due le parti, Adria. Segna. Quello che ho smontato che stavo per piazzare, va. Smontato magari e non è influenzato dal circuito, segnano. Aspettami, ti dico che segna. Uno segna 700 e l'altro 200 e l'altro. Da entrambe le parti. Anche con le persone dei puntali. 224. Inverte di puntali segna 200 e qualcosa, 274. Allora, qui della Mondezza, segnati la priorità allo quadro, in quale sono montati, buttali via. E dove è più scuro? Dove è più scuro? Lo so dove è, no? Non è nata lì. Non so la parte che è più scura dove vuole piazzata. Perfetto, buttare via perché sono tutto in corto, più o meno però sono in corto, perché almeno qualcosa di la deve dare l'isolamento alla zona inversa, devono essere isolati. Vabbè, da già domani passo ai militari di video di cerco di piazzare. Erano colpi colpi, capito? Ma sono andato a ta e si è facciato, ma vaffanculo, quindi sono dettagli in casa. No, non è questione di dettagli, sono tutti in vetro, è quello il problema, le mie germane sono tutti in vetro. E vabbè, ma con i gambi più lunghi li avrei piazzati meglio, capito? Io lo so, però si fanno in vetro e quindi sono una piccola ampolla di vetro, tu te la accorgi però, sono di vetro. Io me ne sono accorto, mi sei facciato. Come si deve passare quello, io non mi sono bugato. Ci va niente, si deve avere semplicemente una pinzata di riscata, però a becco, hai scelto il vetro e si è spaccato. No, ma una pinza al becco fine va acchiappato per nessuna parte, perché di solito si usa il saldatore, non deve acchiappare da nessuna parte. Ehi, ma come stavo entrando il piedino, no? Quello lì mi si è rotto, ma la sanguarda non ti ha messo niente, sono dio di atleti, era un centesimo. Ok. Saverio, se ancora sei andato a fare queste le cose di ex, parli varie. Saverio sta facendo di ex, mi sta confezionando da altra parte. Ero. Che cazzo vedo, mi stai parlando, sei in difficoltà, non mi cazzo, pari, ti devo dire una cosa, lui si come uno si incavola quando succede così, capì? Cazzo, io sono più nervoso di mio, è in più quanto me, quando mi fanno nervoso e sto facendo qualcosa, cazzo, non lo so io. Ecco qua. Adesso andrà bene meglio. Natalina, cosa è malissima? Se ti fai problemi tutti, allora l'attenzione deve essere focalizzata. Ma sono problemi degli altri e chi se ne frega. Questa è una cosa che mi ha fatto bene. Infatti mi si sono girate le scatole proprio per quello, perché io stavo facendo una cosa delicata, vi lascio burrito, no, cazzo mi stai facendo da dirlo. Io fa come vuole. Lo fa come vuole. Non è che lui loro, gli altri, non so chi era che stava facendo carino, perché stava ascoltando qua da altre 10.000 parti, però capito che poco gliene fregava tutti quanti che si siamo preparati di errore, insomma. Vabbè. 37 l'ho attiva, un attimo che anch'io devo fare una cosa, riprendo su. Tutti quanti quelli che ti hanno detto che prendono un copilotto sono le grandissime teste di cazzo. E se mi fai dicendo che a 28 non mi sente, vuol dire che non mi sente. Se mi ha detto ti sento. Provate la radio e ti sentivo. Ti sentivo perché ti sentivo, te l'ho detto, al primo giorno. Con questa radio non ti sento, anche se c'hai più di 20 watt, 30 watt. Non ti sento, non so perché, ma non ti sento. L'antenna è la stessa. Quindi, cosa devo dire? Una balla? Vuoi che dica Adriano che lo sento? Va bene, ti sento. Tanto adesso mi sta prendendo le balle un po' questi discorsi che state facendo. No, scusa Claudio, sapere se anche tu eri un lamentoso come tanti altri che hanno fatto il cazzettone a Saverio, tutto lì, che tu non lo senti, allora hanno problemi gli altri, io non l'ascolto personalmente, né sul Kevwood, né neanche addirittura su una parte normale, c'è qualcuno che lo sente, allora sono problemi loro, intermodulazione. E neanche io lo sento, che ho provato a 2870 e non lo sento manco io. Non capisco, cioè, questi insinuamenti che fai, cioè, non so, io cosa vendo, cosa vuoi da me, non ho capito. Io ho sentito una volta, era appena entrato, io ero a 28.300, le stavo parlando con un radioamatore di Tiredu e sentivo lui sotto. Allora, senza dire niente, mi sono spostato e l'ho detto, guarda, sta entrando in frequenza amatoria. Cioè, come mai? Io ho spiegato perché. Evidentemente quella radio ha qualche problema, farla controllare il punto e basta, ma pure non ho detto più niente, a me non ha avuto nulla. A me se non mi disturbano, io non vado a rompere il cuore a nessuno. Non sono lamentoso. Cioè, cazzo, in questi giorni ci sono scintille in questa 27. Alla fine, invece di accendere e stare un po' in compagnia come avete chiesto, che ci sia gente a fare un po' di chiacchiere cagnara, cazzo c'è di gente, tutti quanti prendi, ognuno la vita giù, a me non me la fa più nulla, se a me non vengono a disturbare mi manda amatoriale, io non mi lamento, è chiaro che se uno mi disturba e manda amatoriale non è che vado a tirare il collo, cosa ti ho detto Charlie? Occhio Charlie, stai attento, io sono Claudio, gli altri non sono Claudio, punto e basta, quello vede lui quello che deve fare, è grande affascinato, cazzo marito di tutti gli avvocati. Fatti lampati, creati così a alla casa di casa, non manco, manco la regia home, sono tutto tutti. Domanda, domanda, ma è verità mai questo discorso o stai parlando di altra gente che io non c'ero, non ho neanche sentito, che si sono venuti a lamentare qua? Sì, sì, si sono lamentati con, espressamente con Salvidio. No, sono entrati, non te l'ho detto, claro, perché penso che lo sapevi o no? No, no, no, no, io non so niente, non so niente. Io non so assolutamente niente. Io ti ho detto una volta una cosa, poi non ho più sentito niente, non ho più avuto modo di parlare con nessuno e nessuno mi ha detto niente. Quindi è la prima cosa che sento, non perché ho fatto una domanda. Ma stai lì, ti stai riferendo a me, a quello che io ho detto a San Pedro l'altra volta, Adriano, o è successo una seconda volta? Domanda sempre. E qua ti risponde il sottoscritto, è entrato quello che abita qua vicino, capito? E mi ha detto scusa, se potevo fare qualche cosa che lo stavo disturbando in digitale, in 28 e spiccioli, capito? Ah, ecco perché, allora io sì, si mi ha detto, io ti ho risposto, ecco perché il giorno che c'era la riunione si è parlato di questo disturbo. Sì, sì, sì, sì. Ho capito. A me hanno fatto una domanda molto specifica che te la dico a chi non me l'ha mantenuta, anche se ci sono radioattivi di ascolto. Hanno detto, è molto vicino a te, ho detto abbastanza, ti disturba? No, non ho mai sentito niente. Queste sono le mie risposte. Punto di domanda, finito il discorso. Solo quello lì che ha problemi, sono una questione di vicinanza, tutto lì, sono una questione di vicinanza, io te lo posso attenuare, guarda, te lo faccio diventare un attacco ultra a norma, e questo so benissimo che non ti farà piacere. Ma lì sono 50 metri, lì sono 10 metri, siete attaccati con quella persona lì, eh. Capo, dietro l'angolo di là, da, dietro l'ente popolare, siamo un gruppo in occhi, mi ha detto sto lavorando in digitale, mi ha detto, mi sembra, con il computer e coso, e ci aveva molto disturbo, se potevo fare qualche cosa, perché era già diverse volte che mi sentiva, e gli ho detto di non preoccuparsi, che già di aver rimediato, che mi era stato già riferito, e niente, stavo aspettando a riportarmi questo apparecchio che avevo prestato a Fabio, quel ragazzo di Carbonazzi. Utilizzando, mi ha detto addirittura che l'ha bruciato, che non accendeva più, me l'ha portato e non c'aveva nulla, io l'ho acceso e funziona, capito? No, si crede di si è attaccato il filo all'alimentazione, non è stato capace molto a riattaccarsi all'alimentazione, figurati. Me l'ha restituito, come me l'ha dato, ho staccato quello lì e l'ho fatto riparazione. Adesso speriamo non si stigna, andiamo. Ma non penso, scusi, andiamo, non è il primo né l'ultimo che esce con 10 watt eppure non disturba. Non vedo, non riesco a capirti. Sono andato da 170 a 400 e non c'era nessuno. Ah, questi segnali, sapete che è un S7, S7 è variabile, S5. Tu non li puoi sentire perché, come fai? Sei lontano, li possono sentire solo tra vicini. A questo punto si tratta semplicemente di questo vivere. Perché non so bene, una frase tra me e 27, ma può avere un filtro per i 28, visto che è una frase 27 multibanda che trasmette addirittura 28 normalmente, non può avere un filtro di trasmissione. Essendo vicinissimi, quello è, tanto quello, si sente un piccolissimo segnale, quello che dobbiamo fare qui a tu vivere. E vabbè, dai, comunque, qua non si è lamentato nessuno, dunque non c'è problema. Cioè va bene così, fino all'altro giorno questo non è avvero, adesso gli è venuto l'incantesimo e gli sono venute anche a questo. No, non so che non dire cose, sto parlando. altrimenti, visto che cade a 28 171 00, al limite vi spostate, ci spostiamo in modo che venga fuori banda, perché spostandosi si sposta anche la spuria, tutto lì. Di eliminarla mi sembra una cosa strana, perché ce l'ha esatta, precisa, ce l'aveva prima di bruciarsi l'apparato, ce l'aveva Gianni, ce l'ha Alice Pomponio, un'altra spuria esatta, ce l'hanno tutti quanti quelli che usano i gruppi Galaxy, le nostre Galaxy, la spuria lì fissa, non ce l'hanno mai da fare. Luca Fissoli, 170. Io sono in questi giorni, forse in questa settimana, mi state sentendo un po' troppo, perché sono sempre qua la sera in casa e mi sto mettendo a posto le braccia, ma tra qualche giorno come ho sistemato l'altra presa, sostituendo le valvole, tutti i valvolari, presso domani, poi domenica, quindi mi arrivo al mare, mi riposo, domani sera mi termino la linea Sommercamp e poi basta. Tanto salutare ogni tanto come facevo prima, perciò se io non mi lamento vuol dire che non sento nessuno. Un'altra cosa che ti voglio dire, quella frequenza non l'ha messa lui, è stata assegnata al comitato regionale, perciò non si può spostare. Il problema bisogna essere risolto a chi è il 27, non chi è il 28, questo sta nel progetto, che da quella frequenza non si sposta manco un millesimo, perché ci hanno messo mesi di fatica, di accorgimenti, di tarature, di balle varie, quindi quella è la frequenza segnata e quella deve rimanere. Sì, Claudio. Confermo, è quello che stavo dicendo io, infatti, quella è una frequenza fissa, c'è nel man plane, è fissa, però guardate che corrisponde al canale 21, però basta abbandonare, cioè spostarsi dal 27 del 115, o verso il basso o verso l'alto, in modo da finire con eventuali spurie da altre parti, tipo GW, no? Addirittura anche più su, per lo sapere che il gap è 900 MHz, circa 900 MHz di spostamento, tutto lì, come doveva convivere, queste sono quelle tecniche che dico io che bisognerebbe anche applicare. Sì, ma io sono d'accordo con te, non c'è nessun problema. Sono d'accordissimo, però non so cosa dire, non so cosa aggiungere. I miei discorsi sono belli, ma se non c'è un risultato. Io per me non ho problema, mi dite andiamo al canale 1, io parlo al canale 1, andiamo al canale 5, andiamo al 5. Volete andare, basta che non andate fuori banda, perché a me non mi interessa ogni tanto, entro, saluto, però non mi piace parlare così, no? È troppo, per me è troppo rischioso, insomma. Si può fare una roba ogni tanto, ma avere un canale fisso fuori banda, non va bene. Se parlo del numero 40, se poi capita qualche volta che con Franco scambiamo delle chiacchiere a 10 minuti, da più di 15 anni è rimasto stato abbandonato, ripreso e è rimasto. Però purtroppo qualcuno ha delle spurie. E alla fine non posso proprio, che è una cosa sbagliatissima, proprio lì, minchia, c'è proprio il fiore del digitale. Se te ne entra un colpo che io tu non capisci la massa. E allora non va bene. Ergo, un po' di comprensione tra tutti quanti. Ok, vedremo di fare qualcosa, di aggiustare un po' le frequenze, in caso mai non si potesse evitare la spuria, se mi sa di no, perché insomma, evitando la spuria di Sanremo, però bisogna togliere anche la spuria di Lucca, quella di Gianni, quella di Antonello, non c'è una sola da quella parte. Tutta la classe degli apparati lì, ma c'è una spuria fissa, no? Lì. Gli altri apparati, bombardati tipo, la parte che è vuota ne fa una pippa, chissà perché, non c'entra, chissà, dipende la forza dai filtri di banda. Io guardo l'inchiesta, ne ho tre serie, dalla prima sino al 440, quindi ho il 430, il 140, il C80 e il 440, perciò, e poi c'ho la serie come dal 726 al 751, anzi al 761, poi c'ho la serie IAESU, quindi vedi bene, no? Al 430 e il 430 che è la prima serie, se tu apri e metti davanti al 440 c'ha tutti i filtri, tutti dalla A alla Z, il filtro noce, il filtro A, il filtro wide, tutti i filtri stretti, larghi, tutti, c'ha una spinta sulla vetra dalla parte del WFO quasi centrale, che c'ha 2, 4, 6, 8 categorie di filtri, tutte siglate. È una radio veramente eccezionale trasmissione, quindi quello pure sbagliato sono di categoria superiore, tranne il 140 sono di categoria superiore, però io non mi posso lamentare, non mi voglio lamentare. Delle linee invece valvolari ti posso dire che è capitato anche a me a volte di essere spostato, ma ti ricordo che io ho una linea della Coolish che è a scala meccanica, quindi per trasmettere con quella linea 27 devi avere un orecchio tipo il povero Parama che è morto, capito? Devi andarci molto cauto, con molta pazienza e stare molto attento dove stai camminando sulla scala meccanica, tu sai di cosa parla, è anche una carina, quindi non essendo a frequenti ne puoi sbagliare che magari si è spostato leggermente, però con l'orecchio riesci ad avere quella sintonia che serve per far sì che il corrispondente ti ascolti bene, tutti delle altre delle linee, insomma, che invece è tutta digitale, il 101 ZD è digitale, il 101 digitale è digitale, il 102 è digitale, quindi anche se sono linee normali sono tutte digitali, tranne la Drake che è a scala meccanica. Va bene, detto ciò io vi saluto, grazie alla compagnia, grazie ai consigli, grazie alle chiacchiere, grazie a tutti e ci sentiamo, salve, attenti a lì, poi vi mandano i gocchi e le ciabatte, buonanotte a tutti, io la radio l'ho provata, va bene, è una gannata, per me anche questa è eliminata, pure le palle. Ciao Claudio, buona notte, ci sentiamo alle prossime. Ok, io adesso proprio di non so come se ne annulla, quello là c'ha problemi, l'ho portato, questo qua adesso va a nulla, è andato senza problema, e no, nessuno mi ascolta, dunque Adriano intanto con le frequenze non ci deve modulare, non c'è un problema. Quando me l'ha detto quello, forse poco fa non è capito, ero col presidente, non l'ho fatto, capito, non è che ho detto niente contro di lui, per carità. Stavo dicendo di Adriano che mi ha detto ascolta, io ti ascolto in 28 ore, ma intanto tu in 28 non ci devi andare, dunque c'è entra qualcuno che viene del campo e mi dice che mi ascolta, ci buca tutto qua, però lo butto dalla finestra, non è che lo faccio riparare. Ma diciamo che se entra qualcuno che fa colpa lì e che da fastidio, dici di mettersi a posto lui, scusa, anche se ha veramente male solo a parte. Antonio, ci sei ancora? Già, ti credo. Ciao, comunque Claudio, stanno via, Ciao Claudio, buonanotte, buon tutto. Ecco. Ciao Claudio, fatelo so che fai almeno un 5 minuti, spero. Bianco d'ascolto. Ok, sentiamo alle prossime. Ciao Claudioschi, se potete che sei riuscito a mettere a posto con l'apparato, va. Ciao. Padria, buonanotte a tutti. No, non perché l'ho messo a posto. Sono un po' più mio, ma con gli occhiali grossi già ci vedo ancora. Chiaramente ci vuole sempre aiutino delle cose, c'è sempre ancora questa avventurina che non mi piace per niente, quindi la riprenderò in mano sicuramente per fare qualche pochino di veramente di quel grasso speciale, ma non mi dà fastidio, però va bene lo stesso, per il resto è tutto ok, allora che sono a Maratone, per la radio c'è tutto, va bene, buonanotte, ciao, anche Natalino, buon proseguimento di e ci sentiamo alle prossime quando capita, adesso me le riposo per qualche giorno perché mi sono anche rotto le palle sentire sempre gli stessi discorsi. Ciao Claudio, non so che discorsi sono stati fatti. Ciao, ci sentiamo alle prossime, avanti in alto l'aus. Sabrina, non c'è per salutare a classe. Salutato prima di tutti, capito? Salutato prima di tutti, ho rilasciato a voi. Andate, riprendete. Se ti lascio fare lì, ma non lì. La pigliava... Ma non mi fare parlare male, Sabri, mamma mia, cazzo. Ma va che mi avete fatto faccia a lui, io cazzo ti buona a fare lui, lo scemo. Cazzo, ho capito, butto. Ora la mia attenzione, oggi siete tutti con le palle girate leggermente. Cazzo, io fa un dio, non andare lì. Cazzo, non ti muoio, cazzo, Luci. Ma non si può fare bizzarro. Ma lei mi ha rotto le balle che io stavo facendo una cosa delicata, ma avete fatto rompere un dio, no? E non ho potuto aggiustare l'accordatore. E non è un giocattolo quello che giù io. Ma non avete fatto rompere. E anche a casa lui da gioco. Cavolo, se ti ha fatto la radio la chiude, la spegni, ma si vuole, ma cantando, non di qui. Dai, caro, se non ti metto la portante. Cazzo, mamma, non mi giaga mai, non mi giaga mai, non venuta di là. Se ti vuoi ammazzare, tu non giaga mai. Dai, ma per una cosa vabbè, ci sentiamo subito, riprendete. Per quello che ho detto questo qua. Finché non c'è il ciaga, vediamo che cazzo ciaga diventi peggio. Ma non c'è la comunità, sono diventato misurato, se vuoi lampato. No, no. Rimani come sei, vai bene, no? Che si... veramente... Oh! Allora, stanno un attimo in cucina, ci sono frappi. Se vede la bombina di questo accordatore mi fa lo schifo. A miseri. Adesso un attimo, stavo cambiando il microfono. Ci sono so perché. Tipo un po' in protezione, che non so, la radio tra lontana, si sente preamplificata, però lontana, bomba è strana, non te lo so spiegare. Penso che ti sia ascoltato, che già lo vedi com'è. Non te lo so spiegare la verità, però è strana. Ha scritto di mostrare la carta, eh? se non c'è le istruzioni qua non si riesce a levarne il piede. Non è che c'è l'imbricino di Sky, non che sono questi tasti, ma non mi raccomandi sulla parecchia, sto toccando i tastini del decolle di Sky, ma non ci deve essere qualche altro interruttore, guarda se c'è l'imbricino di Sky da lì. Ecco, Adria, guarda a vedere, dà un'occhiata al mio a vedere se c'è un'antenna con chi lui da questa parte. Stanno chiudendo gli occhi. Hai capito del discorso? Ascolta, una cosa, beviti una bottiglietta a pesca, così almeno c'è un po' di caffeina. Cosa vuoi dire? Come fa per il sonno? Sei chiuso? E c'ho sonno, non mi sono ricordato niente. Ma speriamo che stanotte dormo almeno. Va bene, là. Fate come volete, non c'è tanto problemi. Vuol dire che mi metto a parlare stanotte, mi sento su 45 come Falcone, chiamando la gente. Sabino, sa bene che è lui che sta facendo questi, no, non io, chiamò un esposto, dunque, 08:25, per un'oretta ci avrò con conto di venire a pigliare quei diodi. Aspetta, un attimo, che me lo scrivo sul foglietto, così domani mattina mi raccapo. Vai alle 6:30, riesce. Yeah. pensato, è uscita spontanea, per quello mi sono messo a ridere. Ma non so, io non sono mai stato portato per queste cose. forse da vecchio mi verrà questo capo di cosa di fare un po' di salomaso, perché non lo fa un sacco di gente, perché è anche lui ucciso, è ancora da 40 anni. Avanti, buonasera. Passo a prendere, tra subito. paghi, tu non paghi proprio nulla. Vabbè, allora io faccio così, te la presto. Poi telefono subito, non me la riporti, telefono subito alla sconfinata a Sky, dico, mica questo tizio Caio, non è cognome, mi ha trovato la scheda. Grazie, ti fanno bello, sì, uia. No, il problema è che le sospendono entrambi le schede. Le sospendono entrambi. Ma è, chi bottiglia di fish. Cazzo, non è così. Vabbè, dai, io me ne sto andando. Vaffanculo. Guardami qua con la televisione, dai. E mi corico. Alla faccia di qua. Cazzo, no, no, no, no, no. Io non dico un cavo a canali, eh. Io ci sono mai capito che ti bisti. No, io, a me io divento tutto gonfio così. guarda, guarda. Spettro. Lo Smith fa dei segni negativi, lui è veramente messo male, comunque prova. Momento. Potete approvare perché non è tuo prato, non siamo sotto mano. Prova un po' se c'è negativo positivo. Come capire, la voce è complicato, non smitterci gli oppositivi. E nello strumento arrivo fino a una certa, a un certo ingresso che gli do al, a suffetta e i picchi sono sempre negativi. Se lo faccio, lo alzo ancora di watt dal, dal malachino e lo faccio salire a 100 watt nello strumento, nel wattometro, quando fischio va negativo dai 100, capito? Se invece gli do, i watt d'ingresso arrivare a 75 di uscita, quando fischio sono positivi, capito? Nel coso, nello smitter sono positivi comunque, anche se li mettiamo letto in parte dell'apparecchio. Quindi io diciamo che a te, se tu nello smitter mi vedevi con picchi positivi o negativi, che ti facevo due passaggi e mi dicevi la differenza. Chissà se sono reali questi 100, 100 ne sta segnando. radio 5, radio 5 più, sono una saturazione, porcate, cazzi vari, no problemi. Ciao, 9.40, se ti sei attenuato, vai, così a coso pieno. Bella, la voce è bella. probabilmente dici sarà dici stato andato da Ghechat mi ha parlato di cosa c'è di te Savilio come? Sì, come vicino a Milano. Yeah. super tipo e lui la fa una volta ogni 10 anni. Ecco perché. Perché sono arrivati di super, di super, ma però tu i divieti non trovano tutti. Sì, però io ci ho attaccato 1200 watt in AM e 2400 in banda. Quindi i costi mai si... Soprattutto lì si dipendevano. Ciao, ciao, ci vediamo.